Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera, ahimè, parliamo di tasse, parliamo di lotta di tasse, il libro di Francesco Delzio che è dedicato appunto a idee e provocazioni per una giustizia fiscale. Buonasera Francesco Delzio. Buonasera. Francesco Delzio è un giovane manager già noto per aver pubblicato libri di successo, sempre con Rubettino, Tuareg, Giovani Flessibili e Felici, un dedicato alla condizione giovanile, La Scossa, recentemente Sei Proposte, Shock per la rinascita del Sud, e adesso affronta il tema del fisco. Il tema dell'ingiustizia fiscale per cercare una giustizia fiscale. Allora, perché in questo paese c'è bisogno e si parla di giustizia fiscale? Del zio. Perché in Italia c'è una clamorosa ingiustizia fiscale e Lotta di Tasse denuncia questa ingiustizia che oggi divide i lavoratori dipendenti da una parte, che sono schiavi del fisco e che sono costretti a pagare le tasse fino all'ultimo centesimo, e i lavoratori autonomi dall'altra, che addirittura sono liberi di autodeterminare la propria base imponibile, cioè di decidere anno per anno se pagare le tasse e quante tasse pagare. L'ingiustizia si può riassumere in un dato clamoroso. Oggi i lavoratori dipendenti e i pensionati pagano con le loro tasse l'80% dell'intero gettito tributario italiano e però detengono solo il 30% della ricchezza nazionale. Basta questo dato per capire di fronte a quale clamorosa ingiustizia fiscale siamo di fronte. Ecco, eppure i metodi per cercare di far pagare le tasse a tutti, soprattutto appunto a chi non ha un reddito fisso, un reddito da lavoro dipendente o un pensionato, i metodi appunto ci sono stati, si sono cercati degli strumenti per arrivare a una tassazione equa, per esempio gli studi di settore per i lavoratori indipendenti, però anche sugli studi di settore mi sembra che lei sia critico. Sì, io credo che gli studi di settore siano una forma di evasione legalizzata, o meglio, che consentano a chi guadagna molto di più dello standard fissato agli studi di settore di poter evadere appunto in maniera legalizzata, e a chi invece ha delle fonti di guadagno inferiori di essere fortemente penalizzato. Io propongo nel libro, in Lotta di Tasse, una strategia totalmente nuova, ed è la strategia della espulsione sociale dell'evasore. L'evasore rescinde il patto sociale, nel momento in cui non paga le tasse decide di mettersi fuori dalla comunità, una comunità che si basa proprio sull'idea che paghiamo tutti le tasse per pagare i servizi pubblici di cui beneficiamo. Quando accade questo, l'evasore deve essere espulso. Per esempio, non bisogna più erogare all'evasore che reitera il suo comportamento di violazione degli obblighi fiscali, bisogna non erogare più i servizi pubblici sociali tranne la sanità all'evasore, bisogna espellerlo dalla società. Quindi non tanto manette agli evasori quanto un po' un boicottaggio. C'è un altro punto del libro in cui lei propone di boicottare quelli che evadono. Sì, il boicottaggio possiamo farlo tutti noi, questa è una misura dal basso molto importante. Se sappiamo che un ristorante, un bar, un dentista non paga le tasse e lo vediamo, come dire, sulla nostra pelle, nei suoi comportamenti, nei nostri confronti, iniziamo a boicottarlo, cioè iniziamo intanto a non andare più in quel ristorante, in quel bar, ma soprattutto poi a segnalare questo tipo di comportamento attraverso internet, attraverso i social network, a tutti gli altri, ai nostri amici, alle persone con cui entriamo in relazione, perché in questo modo creiamo un criterio di mercato che favorisce i commercianti e i professionisti onesti e fiscalmente fedeli. Questo è molto importante. Ecco, ma in questa prospettiva però ci vuole una coscienza sociale, una coscienza civica diffusa. Adesso si ha un po' un vantaggio reciproco, chi si serve di un idraulico paga di meno e l'idraulico paga meno tasse, abbiamo un vantaggio tutti e due a sostenere in un certo senso l'evasione. Come passare da questo vantaggio reciproco a un vantaggio per tutti, a un vantaggio solidale battendo l'evasione fiscale? Beh, io credo che la crisi ci aiuta paradossalmente da questo punto di vista, perché sta facendo capire agli italiani che siamo su una barca che rischia di affondare e che questa barca affonda proprio perché non tutti gli italiani si stanno assumendo il loro dovere di contribuire al pagamento dei servizi pubblici e quindi al mantenimento in vita del nostro Stato. Gli italiani lo stanno capendo, tutte le indagini demoscopiche dimostrano che oggi il primo problema in materia fiscale per gli italiani non è più, come era fino a 6 mesi fa, il peso eccessivo delle tasse, ma è proprio l'evasione fiscale. Quindi gli italiani stanno capendo che è insostenibile, intollerabile, una situazione nella quale ci sono appunto i lavoratori dipendenti che sostengono da soli l'intero peso del gettito fiscale e c'è tutto un mondo di almeno 6 milioni di persone, molti dei quali purtroppo invece vivono proprio su forme di evasione e di elusione. Tutto questo ormai è intollerabile. Però ci vorrebbe anche un patto tra i cittadini e se stessi in fondo, perché lo Stato poi sono tutti i cittadini, con cui di fronte a un recupero di evasione fiscale ci possa essere concretamente anche una riduzione delle aliquote fiscali in Italia, che sono tra le più alte d'Europa, nonostante che i servizi pubblici italiani non siano a livello degli altri paesi. Quindi lo Stato dovrebbe promettere e garantire una riduzione delle aliquote fiscali, appunto, che adesso sono veramente un po' oppressive. Sì, questo dovrebbe essere il grande obiettivo del governo Monti e anche il grande obiettivo di un governo politico successivo alle elezioni del 2013. Una lotta senza quartiere all'evasione fiscale con la strategia dell'espulsione sociale, che io propongo in lotta di tasse, ma con un obiettivo dichiarato subito, da qui a un anno, di ridurre il carico fiscale sia IRPEF che IRAP, in particolar modo, che oggi grava sui contribuenti italiani, sui lavoratori dipendenti e sulle piccole imprese. Si parla molto di ipotesi patrimoniale. In un certo senso il governo Monti ha introdotto una patrimoniale sugli immobili con l'IMU e ha detto che sarebbe difficile introdurre una patrimoniale sulle proprietà finanziarie, sui grandi patrimoni. Secondo lei è possibile pensare a un'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie? Io credo che sia necessaria, perché quello che è successo negli ultimi 20 anni in Italia è proprio il fatto di aver dimenticato il valore del lavoro e quindi di aver tassato il lavoro, di averlo vincolato in maniera purtroppo eccezionale rispetto agli altri paesi avanzati. Quindi abbiamo deciso di penalizzare il lavoro su cui avevamo fondato invece il nostro boom, il nostro miracolo economico, e abbiamo privilegiato in maniera dissennata, scriteriata, l'accumulazione di rendite finanziarie improduttive. Quindi una patrimoniale che colpisca le rendite finanziarie, magari con strumenti di accertamento nuovi che oggi iniziamo ad avere, basti pensare che l'Agenzia per le Entrate oggi può accedere ai conti correnti degli italiani, ecco, una patrimoniale basata su strumenti nuovi credo sia necessaria, una patrimoniale light che però serva a riequilibrare il grave squilibrio fiscale che oggi penalizza il lavoro in Italia. Ma non potrebbe penalizzare anche i mercati finanziari? In fondo non vivono una stagione molto felice i mercati finanziari, la borsa italiana è, tra l'altro, proprio in questo periodo fa segnare delle performance negative tornando a livelli degli anni passati, quindi ecco, non ci sarebbe bisogno invece di sollecitare il risparmio, di sollecitare gli investimenti esteri, di trovare nuove formule più per promuovere il fatto che capitale diventi poi operativo, quindi magari facilitare gli investimenti invece che penalizzarli? Sì, il problema è che però oggi non creiamo ricchezza e se non creiamo ricchezza non possiamo creare neanche l'investimento di questa ricchezza ai mercati finanziari. E allora se il lavoro e il profitto oggi, quindi la parte di reddito che va ai lavoratori e la parte di reddito che va all'imprenditore, sono così fortemente penalizzati, è questo il primo terreno sul quale dobbiamo intervenire. Ecco, ma in un certo senso io penso che Francesco Del Zio, che è molto attento appunto ai problemi della società, abbiamo parlato dei suoi libri sui giovani, sul mezzogiorno, sull'insieme dell'Italia, stia pensando probabilmente anche a un altro libro, perché è giusto parlare di lotta di tasse, però c'è anche un problema di una spesa pubblica efficiente, di servizi che lo Stato deve offrire ai cittadini in maniera razionale, di una giustizia redistributiva che non deve privilegiare qualcuno, di uno Stato che forse deve lasciare più spazio all'iniziativa privata senza appunto assorbire più di metà del reddito nazionale. Quindi un prossimo libro di Del Zio potrebbe essere uno Stato più efficiente, uno Stato più razionale, uno Stato che a fondo spenda meno e spenda meglio? Sono molto d'accordo con questa analisi, in particolar modo con il fallimento delle regioni e degli enti locali, perché a partire dagli anni 70 abbiamo costruito purtroppo dei piccoli mostri dal punto di vista della gestione dei bilanci, ce ne stiamo accorgendo solo negli ultimi anni, perché i debiti contratti a livello soprattutto regionale e poi a livello locale a cascata e lo spreco di denaro pubblico che ancora oggi, nonostante le spending review, viene perpetrato a livello in particolar modo regionale, è qualcosa che oggi è molto più insostenibile rispetto a quello che avviene a livello centrale di Stato e di Ministeri. Quindi credo intanto che dobbiamo smontare questi piccoli mostri che abbiamo creato a livello regionale, dare un senso alla spesa pubblica a livello regionale e poi probabilmente potremo parlare di un federalismo efficiente, di nuove forme di autonomia. Ecco, uno Stato che si ridisegna oggi deve essere ridisegnato a partire dalle regioni in Italia. Ecco, in un certo senso questo è certamente vero, però vediamo quanto sia difficile cercare di incidere sui meccanismi meccanismi strutturali dello Stato. C'è in fondo in questi giorni proprio questa, io la chiamerei pantomima delle province, in cui si parla di accorpamenti, di compravendita di comuni per far sì che le province possano resistere, di regioni che vedono come l'Umbria, il Molise o la Basilicata, che avranno la stessa realtà, sia la provincia sia la regione, resteranno tutte e due le entità. Ecco, uno Stato che non riesce a riformare se stesso, una politica che non riesce a riformare se stessa, che cosa può essere, riprendendo un po' il titolo del libro precedente, quello sul Mezzogiorno, la scossa che può provocare un cambiamento di atteggiamento di uno Stato che sembra immobile, sembra molto gattopardesco, riformare tutto per non riformare nulla? Sì, io credo che bisogna fare come in azienda, cioè bisogna ripartire dall'analisi dei bisogni dei cittadini. In azienda si analizzano i bisogni del mercato, qui noi dobbiamo resettare tutto e analizzare i bisogni dei cittadini, e su questi bisogni dobbiamo ricostruire il modello di Stato che vogliamo. È un compito straordinariamente impegnativo, potrebbe richiedere un nuovo libro, potrebbe essere molto interessante, ma soprattutto richiede un coraggio politico che purtroppo il governo tecnico non può avere, perché ha ovviamente un orizzonte molto più limitato, ma che dobbiamo chiedere oggi alle forze politiche. Ecco, in questo senso le forze politiche hanno una grande responsabilità. Allora ritorniamo al tema delle tasse, ritorniamo per concludere al tema di questa lotta di tasse, una lotta che però non dovrebbe essere una lotta tra poveri, dovrebbe essere una lotta con un obiettivo comune. Come far sì che questa lotta abbia un obiettivo comune, un obiettivo, per usare una parola grossa, magari etico, un obiettivo che abbia dei valori di fondo, ma che sia un obiettivo che faccia capire in fondo che ci si possa guadagnare tutti da una giustizia fiscale più vera, più reale, più solida? Intanto dobbiamo evitare che fallisca, tra virgolette, lo Stato italiano, e oggi i 180 miliardi di evasione fiscale ogni anno, quindi di mancati introiti per lo Stato, sono probabilmente una delle cause principali più rilevanti che potrebbero portare al rischio appunto di un fallimento dello Stato. Quindi dobbiamo assolutamente evitare questo, perché diversamente ci perderemmo tutti molto più delle tasse che paghiamo oggi. E poi c'è l'obiettivo positivo di portare il livello delle nostre tasse a un livello europeo, dove per Europa intendo la Francia, la Germania e non i paesi scandinavi, e credo che su questo obiettivo possiamo essere tutti d'accordo. E siccome le mucche, ovvero i lavoratori dipendenti e i pensionati, sono stati spremuti fino ad oggi, fino all'inverosimile, non possiamo che chiedere a chi oggi non ha pagato le tasse o le ha pagate molto di meno, di farsi carico, come dire, di una parte di responsabilità, perché pagare meno tasse poi porterà benefici a tutti. Ecco, con questo auspicio, pagare meno tasse, pagarle tutti, avere uno Stato più giusto, speriamo che questo libro possa essere appunto un elemento di riflessione per fare un salto di qualità in questo paese che ha bisogno veramente di salti di qualità. Come ricordo, un po' come conclude poi Francesco Del Zio il libro Lotta di Tasse, lo conclude con due testimonianze, direi completamente diverse l'una all'altra. Una è un racconto di Italo Calvino, che appunto ricorda il bene dell'onestà, il fatto che un paese debba fondarsi su un'onestà che nasce in fondo dallo spirito originale delle persone, dallo spirito proprio di sentirsi comunità. E poi c'è un'intervista, direi disarmante, a Terry di Colonna, delle ragazze di Tarantini, che dimostra in fondo la vacuità dei valori sociali che ci può essere a un certo livello, che ci può essere in certe realtà. E quindi con questa profonda divaricazione tra il senso dell'onestà e la perdita di valori, c'è in fondo il richiamo a ritornare ad essere persone responsabili all'interno della società. Grazie Francesco Del Zio. Grazie a voi, a presto. Abbiamo parlato del libro di Francesco Del Zio, Lotta di Tasse, idee e provocazioni per una giustizia fiscale, edito da Rubettino, costa 10 euro, non sono 10 euro detraibili dalle imposte, ma sono spese bene, sono 90 pagine che si leggono d'un fiato. Grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia e a Nadia Zammitti in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo.